Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buone nuove dalla ricerca. Il laboratorio di microbiologia e virologia dell'IRCCS Ospedale San Raffaele ha isolato il nuovo coronavirus da due pazienti con infezione respiratoria acuta ricoverati presso l'ospedale. A Obiettivo Salute il professor Massimo Clementi, ordinario di microbiologia e virologia presso l'Università Vita Salute San Raffaele, che ha condotto lo studio. Professor Clementi, buongiorno e complimenti. Buongiorno. Professore, prima di chiederle quale informazione aggiungerà alle conoscenze del virus la vostra scoperta, le chiedo di spiegarci che cos'è un isolamento del virus. Quell'isolamento virale è la possibilità di far crescere in colture cellulari che abbiamo in vitro un virus che replica in queste colture. Questa è una procedura diversa da quella abitualmente utilizzata per la diagnosi, ma parallela ad essa. La diagnosi infatti viene eseguita in infezioni come questa e in molte altre quasi sempre con tecniche molecolari che sono molto rapide e molto specifiche, però non lascia a disposizione il virus. Noi avevamo necessità di disporre anche dell'agente infettante, possibilmente da più pazienti, in questa occasione. La vostra scoperta quale contributo darà alla comunità scientifica? Questo è molto importante, a mio avviso, perché da un lato conferma la diagnosi, ma soprattutto dall'altro mette in mano alla comunità scientifica una piattaforma per poter valutare quelle che sono le attività che adesso ci interessano moltissimo e abbiamo capito, finalmente dico io, che sono importanti. Perché finalmente? Perché non le abbiamo fatte prima, quando abbiamo avuto, dopo l'epidemia di SARS e dopo l'epidemia di MERS, la possibilità di farle. Lì abbiamo tirato un sospiro di sollievo, ci siamo detti il pericolo è scampato e non abbiamo pensato che un'altra epidemia poteva arrivare. Questa volta sappiamo che quasi certamente un'altra epidemia potrebbe arrivare tra alcuni anni e allora dovremmo avere dei presidi terapeutici o profilattici per contrastarla. Professor Clementi, parliamo di tempi. Quando sarà disponibile il vaccino? Il vaccino potrebbe, come tempi tecnici, richiedere circa un anno. È chiaro che poi ci sono i tempi di approvazione, chiamiamoli burocratici, che sono sempre un po' più lunghi e allungano questi percorsi. Mentre per lo sviluppo di nuovi farmaci antivirali i tempi si accorciano? Si accorciano per la ricerca, poi per l'approvazione all'uso in vivo dovrebbero essere accorciati anche dagli enti regolatori, come è stato fatto per altre malattie socialmente importanti in passato. Grazie professor Clementi per essere stato con noi e complimenti. Un nuovo grazie successo della ricerca grazie italiana. La programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Io vi aspetto in diretta Facebook. Oggi insieme a me il dottor Franco Berrini.